la violenza con cui si è perpetrato lo sfratto di ieri ha riacceso il riflettore su una questione come quella dell'emergenza abitativa in città. Reputiamo sconcertante che in questa situazione la questura di Bologna si faccia portatrice di interessi di un ricco multiproprietario al quale ancora veniva pagato un affitto con cadenza regolare, cagliando dure parti di celere contro una famiglia di attivisti e attiviste che chiedevano una soluzione dignitosa a conseguenza dello sfratto se fosse avvenuto. Stimazione che è vero, il comune ha preso parola, essere stata presentata nei giorni precedenti alla famiglia, che già era poi dopo stata presentata all'accesso esecutivo di gennaio, che è stato rinviato non per grazie a chi era presente tra ufficiali giudiziari e polizia, anche in quel caso non in assetto antisommossa ma presente, ma gli attivisti che avevano messo in piedi anche a gennaio un picchetto antifratto. E forse pure prima del tavolo prefettizio che venne fatto a novembre sul caso specifico, la stessa soluzione o fantomatica soluzione era stata proposta, ma questa pensiamo che non può essere chiamata una soluzione, e questo non è la nostra opinione ma quanto certificano anche le convenzioni internazionali sulla tutela dei minori e dei nuclei familiari. La soluzione è una stanza di albergo situata in un'altra città e con un costo di 700 euro a settimana, spesa che andrà a ricadere sulle poche risorse ancora disponibili ai servizi sociali, che sicuramente poteva essere stanziata per situazioni che forse ne avrebbero avuto più bisogno rispetto a una famiglia che ancora riusciva a pagarsi un affitto, che ha un lavoro a tempo indeterminato e via dicendo. Il problema quindi per noi qua, oltre che essere politico, è sociale. Imbarazzarsi di una questione come questa che pone il tema della destinazione delle risorse pubbliche e del chi decide sulla città non dovrebbe diventare un problema di ordine pubblico. Voi evidenziate anche un problema sempre più frequente in città, che è una questione anche di garanzie e di difficoltà che si hanno nel trovare la casa. In particolare questa famiglia ha il padre che è un lavoratore assunto a tempo indeterminato, però nonostante questo non è riuscito a trovare un appartamento in affitto. Sì, infatti ieri sono rilevanti di una situazione che sta diventando sempre più tragica qua in città. Chi lavora è sempre più impossibilitato, nonostante le garanzie di contratti a tempo indeterminato, a trovare case in affitto. Dall'altra parte abbiamo molti proprietari chiaramente avidi di profitto, alla ricerca spasmodica di o attualizzare i canoni di locazione, come in molti casi succedono, cioè far terminare canoni di locazione magari pregressi all'ondata di aumenti di questi ultimi anni, e quindi poi dopo riaumentare immediatamente nel mese successivo un nuovo canone i prezzi, oppure dall'altra vendere prima gli esperti ora ne stanno già narrando e riparlando di un possibile calo del valore degli immobili nelle prossime mensilità, quanto l'Unione Europea per far fronte a anche l'aumento dei tassi di interesse dovrebbe portare a un calo del valore degli immobili. Questo quindi sta portando molti a poter vendere in questo momento gli immobili. Dall'altra, per richieste di stanze in affitto da parte di studenti e non solo, i lavoratori che si trasferiscono in città, la diminuzione conseguente dell'offerta che porta a un aumento dei prezzi dei canoni. Poi dopo non vorremmo parlare manco di chi non ha un reddito addirittura o studia, che non ne parliamo nemmeno. Abbiamo già visto da settembre, ottobre, novembre cosa ha prodotto sulla componente studentesca, che si è trovata costretta anche ad andare a occupare immobili in città, e tutte le questioni di rimenti collegate a via Oberdan, via Capo di Lucca, che credo siano stati i due emblemi di questo autunno sul problema emergenziale abitativo per studenti. Voi nel vostro comunicato dite anche una cosa molto chiara: sulla vicenda della casa bisogna prendere una posizione, scegliere da che parte stare. Esatto, qua c'è una scelta molto chiara, l'abbiamo posto come interrogativo: da che parte stiamo, dalla parte della rendita o della vita? In questo contesto generale è chiaro che ci delinea una situazione che mi sembra quanto mai chiara, non è solamente locale, è un problema nazionale per quanto ci riguarda. Il governo Meloni nei suoi primi 100 giorni di legislatura ha tracciato una linea molto chiara, politica e di attacco alle classi popolari. Prima di tutto con l'eliminazione del reddito di cittadinanza e del taglio totale alle detrazioni finanziarie destinate al fondo per il sostegno dell'affitto e per il fondo delle morosità incolpevole, che quindi per quest'anno saranno per l'ultima volta finanziate. Questo vuol dire che solo a Bologna, mi faccio un esempio, nel 2022 per accedere a questi fondi hanno fatto richiesta 18.680 famiglie. Questo vuol dire che dal prossimo anno questi due fondi non esisteranno più, o se esisteranno saranno considerevolmente ridotti, si parla dell'80-90% in meno, che erano i fondi che metteva direttamente lo Stato. Quindi vuol dire che chi dovrà far fronte a una morosità incolpevole o doveva sostenere, avere un sostegno per poter pagare l'affitto, non potrà più accedere nemmeno a questo tipo di aiuto o reddito indiretto, come si vuole chiamare. Questo vuol dire che, oltre alla già grave situazione dell'inflazione, degli aumenti dei prezzi, delle conseguenze della guerra che si sono tradotte qua sui nostri territori, aumento di spesa per ogni famiglia, ci troveremo anche a far fronte all'impossibilità di poter anche perlomeno minimamente tamponare le conseguenze che si stanno già diramando sul nostro territorio, con un aumento considerevole degli sfratti e l'impossibilità già ad oggi, ad un anno di distanza dalla riapertura e dallo sblocco degli sfratti per il Covid, a un'emergenza abitativa che non si riesce più a detonare. In questo momento già l'abbiamo visto ieri, per accedere a una casa d'emergenza ci vogliono mesi d'attesa, perché quelle presenti sono già tutte piene.